comprato un libro per capire il sistema. È un film maledetto per guardare l'inferno da vicino. Una villa chiusa, quattro troni e una pena. Ragazzi venduti al potere del vicino e del padrino. Non è cinema da popcorn, è uno schiaffo in piena faccia. Un rosario di violenza che ti lascerà la pancia. Ci dicono guarda è solo finzione, ma senti il corpo che trema quando capisci che è la nostra condizione. Non è arte del terrore, è la nausea come atto d'amore. Se ti fa schifo quello che vedi, forse il cuore batte ancora. Brucia Salò, brucia Gomorra, ma il sistema resta in piedi tra le rovine e la terra morta. Tra la merda del consumo e i cadaveri nel porto, la sola vera anarchia è del potere che ti vuole morto. E allora Pasquale, fratello nascosto, che cuci abiti da sogni e vivi al margine del giusto. Pasquale di tutto il mondo, unitevi prima che l'oro del mondo vi seppellisca vivi. Salò è un Vangelo alla rovescia, dove i santi sono i carnefici e i ragazzi sono le croci. Un pugno chiuso che si spezza, un urlo che nessuno raccoglie dalle nostre voci. Anarchia del potere, dicono ridendo. Libertà di pochi sopra il sangue di milioni. Non è legge che si scioglie, è solo il vincolo tremendo di un mercato che ti compra pure i sogni e le illusioni. Gomorra è lo stesso inferno, solo senza la scenografia elegante. Camion di scarti nella notte, fuochi tossici all'orizzonte, la pioggia incandescente. Lì la terra dei fuochi è il girone della merda, dove il cotone, gli abiti, i corpi ritornano fango in una pozza sporca e aperta. E tu che leggi pensi perché proprio lui deve pagare il conto. Chi parla contro il sistema vive nascosto, vive pronto. Brucia Salò, brucia Gomorra, ma il sistema resta in piedi tra le rovine e la terra morta. Tra lo stipendio in nero e il vestito da star, chi muore sotto scorta non può più tornare a casa. E allora Pasquale, maestro invisibile che insegna ai cinesi il filo dell'impossibile. Pasquale di tutto il mondo, unitevi, che il merito non sia più sacrificio inutile. Ci hanno detto siate liberi, scegliete tra mille vetrine, ma tutte le strade portano allo stesso centro commerciale di rovine. Hanno preso la parola rivolta e l'hanno messa sugli scaffali in saldo. Hanno chiamato libertà l'essere schiavi di un click e di un brand sul palmo. Chi denuncia vive come un boss, prigioniero della scorta. La verità gli apre il mondo e poi gli chiude ogni porta. E tu ti chiedi lo rifarei? Scriverei ancora Gomorra, girerei ancora Salò. Ogni sì che nasce in gola è un colpo al trono di chi vende l'anima a rate, lo so. Brucia Salò, brucia Gomorra, ma la cenere ci parla di chi ha detto ancora no. Ogni ragazzo sacrificato in quella villa, ogni corpo nella pioggia della periferia ostile, sono specchi sullo schermo della nostra vigliaccheria civile. E allora Pasquale, che hai smesso di cucire per non vedere il tuo capolavoro sfilare e sparire. Pasquale di tutto il mondo, unitevi, che non sia il talento a doversi arrendere per primo. Perché in questo mare di fuochi e di rifiuti, tra le scuole c'è chi talk show taciturni. Se qualcosa ancora può salvarci è il disgusto che ci sveglia dal sonno dei giorni. Pasquale di tutto il mondo, unitevi, prima che il sistema vi dica ancora che è tutto normale, che va tutto bene. Così.